Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, anche oggi insieme al presidente Carlo Garofolini al telefono con noi. Ciao Carlo. Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di una vicenda che è successa e che riguarda una scuola di inglese, la Direct English, che ha una decina di sedi in tutta Italia. Cos'è successo? Sì, innanzitutto parliamo di una scuola di inglese per persone che normalmente lavoravano ed erano abituati a frequentarla di sera, di cui improvvisamente si sono trovati con le porte chiuse e senza nessuna notizia in merito. E nel passare dei giorni cresce la preoccupazione e hanno incoraggiato a venire all'Adico per denunciare un po' quanto è accaduto, di cui in queste ore i nostri uffici si stanno mettendo a lavoro proprio per capire cosa è realmente accaduto e perché questa scuola da 8 giorni non garantisce più il servizio di cui le persone hanno pagato. Ecco, quindi una scuola che faceva evidentemente il mestiere di scuola di inglese, che senza dire nulla a nessuno ha chiuso i battenti e quindi tutti quelli che avevano pagato i loro corsi si sono trovati con niente in mano. Sì, allora, per quanto riguarda qua il Veneto, dobbiamo ricordare c'è una sede a Mestre con circa 300 studenti, una a Verona che ne pare ne abbia poco più di 200-250 e altrettante a Treviso. Quindi certamente è una scuola che oltre ad essere presente in 10 regioni, comunque aveva circa 700-800 studenti qua nella regione e sicuramente molti di loro, di questi, avevano un finanziamento perché i corsi venivano proposti su pagamento di una finanziaria di cui le persone pagavano un tot al mese, oppure purtroppo molti hanno optato per pagare interamente il corso e oggi sperare di riuscire almeno capire cosa sta accadendo, perché se non aprono i cancelli certamente si augurano di poter richiedere almeno la somma indietro. Ecco, quindi persone che frequentavano la scuola, che pagavano delle rate ma collegate a una finanziaria, quindi la scuola i soldi li ha ricevuti tutti e chi avrà le rate della finanziaria le continuerà a pagare anche se a scuola non ci va più perché la scuola è chiusa, e appunto chi si è trovato invece a versare i soldi per intero, magari in contanti, e li ha persi nella stessa maniera, perché non ci sono notizie, no? Proprio per questo molti si sono rivolti all'Adico per cercare di risalire e avere qualche notizia in più. Innanzitutto, Francesco, per essere preciso, è capitato giovedì di circa 9 giorni fa che le persone si sono trovate con i cancelli chiusi e un messaggio che registrava una voce al quale dicevano che per problemi organizzativi / amministrativi la scuola non avrebbe più garantito il servizio. Io stesso, in qualità di presidente dell'Adico, mi sono incontrato con il responsabile che c'è dietro questo istituto, al quale, malgrado tutte le buone assicurazioni che ha dato per cercare di giungere a una conclusione positiva della vicenda, ha fatto ben capire che comunque i presupposti per poter riaprire saranno molto difficili. È vero che in questo caso ad essere, diciamo, maggiormente tutelato sono, come prevede il codice del consumo, coloro che hanno in atto una finanziaria, perché in caso di inadempimento del contratto o purtroppo, diciamo, anche nel caso che una impresa possa fallire o non garantire più il servizio, si può chiedere, oltre all'interruzione del pagamento, anche il recesso di quello che era un contratto in essere e conseguentemente la restituzione dei soldi. Certamente per invece quanto riguarda le posizioni per coloro che hanno pagato anticipatamente, queste sono un po' più complicate, ma ci si augura arrivare anche qui a una soluzione che possa in qualsiasi modo soddisfare il consumatore. Ah beh, mi dai una buona notizia, insomma, chi ha pagato e sta pagando le rate con la finanziaria in qualche modo potrebbe ottenere un risarcimento, magari in parte, di quello che deve versare o che ha versato. La cosa che mi chiedo è poi, essendo una scuola di inglese, avrà avuto anche dei dipendenti, quindi i professori stessi che magari si troveranno a non ricevere più improvvisamente lo stipendio. Sì, i dipendenti abbiamo già avuto conferma che sono rimasti a casa, molti di questi hanno dato già le dimissioni, per cui sostanzialmente dobbiamo anche dire che sono quelli che, tra virgolette, sono maggiormente tutelati, perché in caso di fallimento nei confronti dei dipendenti ricordiamo che questi risultano essere dei debitori privilegiati. Certamente dobbiamo capire come in conseguenza a questa vicenda è sempre opportuno a questo punto, e lo dico ironicamente parlando, stipulare dei finanziamenti con delle finanziarie anziché fidarsi e pagare anticipatamente, in questo caso parliamo di corso, in un'altra situazione potevamo parlare di beni, e vedi il caso per esempio dei mobilifici Ariazione, quando migliaia di persone si sono rimaste coinvolte in questo fallimento, siamo usciti a tutelare solamente coloro avevano dei finanziamenti in corso anziché coloro che avevano pagato e non gli hanno consegnato i mobili. Per cui torna di nuovo, mai come ora, sempre il rischio di queste società e imprese che continuano a fallire, di cui i consumatori, pensiamo anche alle compagnie di viaggio, alle compagnie aeree, risultano essere sempre quelli meno tutelati rispetto a quelli che sono altri creditori, che risultano oltre ai dipendenti essere maggiormente privilegiati. Ecco, è veramente interessante questa cosa. Io non sono proprio giovane, però non avrei detto che sono più garantiti quelli che fanno i finanziamenti, quindi lo terrò a mente su un mio prossimo eventuale acquisto di qualche genere o di qualche corso eventuale anche per i miei figli, insomma, eventualmente è da tenere in considerazione anche questa cosa. I prossimi passi dell'Adico quali sono in riferimento a questa scuola d'inglese, la Direct English? Beh, innanzitutto ricordiamo che l'Adico in questi giorni sta organizzando gruppi di alunni, abbiamo fatto circa 25 persone venerdì, poi ne abbiamo incontrate un'altra 23-24 lunedì, ne incontreremo altri nei prossimi giorni della settimana, perché il numero degli alunni sono veramente, si parla di cifre di parecchie centinaia, e addirittura c'è una delegazione di Verona che ci ha contattato perché vorrebbe unirsi al gruppo di Treviso e di Venezia. Però certamente la prima cosa che faremo sarà mandare una diffida a queste responsabili e a queste finanziarie, dove invocheremo proprio di non pagare più la finanziaria, ma oltretutto la restituzione dei soldi per un servizio che fondamentalmente non è stato più garantito. Anche se l'augurio è quello che la persona che ci ha contattato mantenga l'impegno di voler risolvere questa vicenda, per cui magari, chissà, che assorbiti da qualche altra parte, magari per quello che hanno pagato, si possa comunque fargli completare il corso. Ecco, anche questa è una buona notizia. Ricordiamo che c'è sempre la possibilità di dare un'occhiata al sito associazionedifesaconsumatori.it, dove ci sono i numeri di telefono, le cose che servono per chiamare l'Adico e insomma chiedere un aiuto in questo caso, ma anche in tantissimi altri che, ahimè, purtroppo a ogni consumatore capita di trovarsi in difficoltà nella vita, e quindi l'Adico aiuta proprio a risolvere una serie di determinati problemi. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento con te Carlo è fra un paio di giorni. Sì, grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.